Europa 24. Buongiorno da Maria Piera Ceci. Il rapporto della Commissione europea sul debito italiano. Bruxelles ritiene che la regola del debito va considerata rispettata dall'Italia. Questo tenendo conto di diversi fattori: delle attuali condizioni economiche sfavorevoli, dell'inflazione particolarmente bassa che rende il rispetto della regola del debito particolarmente esigente, del fatto che l'Italia assicura che sarà effettuato un aggiustamento del bilancio adeguato e che ci si aspetta l'attuazione di riforme strutturali che rafforzano la crescita, cosa che contribuirà alla riduzione del debito nel medio-lungo termine. Noi tedeschi dobbiamo fare tutto per far sì che l'Unione Europea resti insieme. A parlare così questa mattina Wolfgang Schäuble a Berlino davanti al Bundestag, il Parlamento tedesco, chiamato questa mattina ad esprimersi sull'intesa con la Grecia. Il nostro futuro, in particolare quello della Germania, può essere buono soltanto nell'Europa unita, ha detto. Il Parlamento tedesco ha votato a larghissima maggioranza il prolungamento fino a fine giugno del programma europeo di aiuti alla Grecia, ma un discreto numero di dissidenti è emerso nelle file dei democristiani del cancelliere Angela Merkel. L'accordo è stato approvato da 542 deputati su 587, 32 hanno votato contro e 13 si sono astenuti. Una decisione difficile ma necessaria, aveva detto nel sollecitare il voto positivo del Bundestag il ministro delle finanze Schäuble, non senza sottolineare che l'atteggiamento del governo greco nel negoziato ha complicato le cose. Comprereste un'auto usata da Tsipras o da Varoufakis? Chissà, ha chiesto polemicamente un deputato democristiano. Il giornale popolare Bild ha fatto campagna per il no, ma l'opinione pubblica tedesca, secondo gli ultimi sondaggi, è oggi meno favorevole all'uscita dalla Grecia dell'euro di quanto non fosse qualche settimana fa. Tuttavia la partita potrebbe complicarsi fra 4 mesi se verranno discussi nuovi aiuti ad Atene. Alessandro Merli, Radio 24, il Sole 24 Ore, Francoforte. Confermato per lunedì a Bruxelles l'incontro trilaterale sul gas. Ci saranno anche ministri dell'energia di Russia ed Ucraina. L'annuncio è arrivato dalla portavoce del vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic, che farà da moderatore fra Kiev e Mosca. Il tema principale in agenda delle discussioni sarà l'attuazione del pacchetto invernale, ricordando che Bruxelles si aspetta che entrambe le parti lo rispettino ampiamente e che allo stesso modo assicurino il transito di gas verso l'Unione Europea. Queste le parole di Sefcovic. L'Europa protagonista nel boom di emigrati verso il regno di Sua Maestà. Sul podio degli espatri c'è l'Italia. Un problema politico in più per il premier David Cameron. La Gran Bretagna si conferma terra di immigrazione in tempo di crisi. 624.000 persone sono emigrate oltre Manica lo scorso anno, quasi 100.000 in più rispetto all'anno precedente. Forte l'incremento dei cittadini dell'Unione Europea, in crescita di 43.000 unità a quota 251.000. Un vero e proprio smacco per il premier David Cameron a soli 2 mesi dalle elezioni generali, proprio lui che aveva promesso che nel 2015 avrebbe ridotto l'immigrazione netta a 100.000 unità annue. Smacco ingigantito dall'incapacità mostrata sin qui da Cameron nel rinegoziare gli accordi di Schengen con i partner europei dopo essersi scontrato col muro opposto da più paesi. E i numeri raccontano come proprio dall'Europa arrivino i flussi maggiori, in primis dalla Romania 146.000 emigrati, seguita dalla Polonia 107.000. Terzo paese, neppure troppo a sorpresa, l'Italia con ben 51.000 connazionali emigrati per lavoro, un numero quest'ultimo su cui riflettere, innanzitutto perché certifica lo scollamento pauroso tra i dati di emigrazione ufficiali italiani e quelli dei paesi di destinazione, ormai superiori di almeno 3 volte. In secondo luogo perché questo dato giunge a pochi giorni da un altro analogo relativo all'emigrazione italiana in Germania. Nel primo semestre 2014 35.000 italiani sono emigrati in terra teutonica. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.